Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Al di là della borsa, dove oggi Milano se la passa meglio di altre borse, e lo dico non solo perché l'indice perde lo 0,22%, mentre Parigi perde l'1,07%, Francoforte lo 0,70%, e Londra l'1,20, ma anche perché c'è oggi lo stacco delle cedole, quindi dei dividendi, di grandi gruppi quotati a Milano, e questo pesa, cioè falsa l'indice, di un altro 0,7%. Quindi teoricamente, o meglio, se non vi fosse lo stacco cedole, la borsa di Milano sarebbe anche positiva di uno 0,4-0,5%. Distribuiscono infatti dividendi oggi Enel, Terna, Exor, ST Microelectronics, A2A e Parmalat. Bene, alcuni titoli: Fiat più 3,90, Intesa San Paolo più 3,5, UbiBanca più 3,30 come Unicredit, Popolare Emilia Romagna più 2,12, Atlantia più 1,40, Saipem più 1,20, Generali più 1,20, Mediobanca, dopo la decisione di uscire dai vari patti di sindacato, comunque più 1%. Fronte opposto invece, e attenzione qui, pesa lo stacco della cedola, A2A per esempio, meno 7%, come la Popolare di Milano, che però oggi non stacca cedola, se ho ben visto, però controlliamo su questo. Terna la stacca meno 4,90, Enel la stacca meno 5,60%, ancora per quello che riguarda Gtech meno 4,46%, Mediaset meno 4,20, Exor meno 3,60, Ferragamo meno 2,90, come ST Microelectronics, Prismian meno 2,5, Diasorin meno 2,40, Tenaris meno 2, Autogrill meno 2, ST Microelectronics, attenzione, stacca la cedola, dicevo, Fondi RSI meno 1,40, Azimut meno 1,50, Finmeccanica meno 1,30%. Vi anticipo che nel corso di questa diretta verremo interrotti per dare gli aggiornamenti sulla lettura della sentenza per il processo Ruby, un tema delicatissimo che riguarda non solo e non tanto la cronaca giudiziaria, ma anche e soprattutto la cronaca politica. Non è un mistero infatti che da più parti si leghi, diciamo, la lettura della sentenza anche al futuro o eventuali travagli del governo Letta. Ma al di là di questo, gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria riguarderanno da un lato l'Asia e nel caso specifico la Cina, perché a questo punto la Cina è da settimane che preoccupa i mercati. La frenata cinese ha avuto anche ripercussioni sulle borse, non solo, diciamo, la decisione della Federal Reserve di lentamente uscire da una politica così accomodante e quindi smettere di o ridurre la moneta che viene stampata, ma anche la Cina e la frenata cinese. Oggi la notizia più forte riguarda la borsa di Shanghai, che ha perso il 5, un tonfo vero e proprio, il 5,5%, e anche quella di Shenzhen, meno 6,5%, con una ripercussione questa mattina anche sui mercati asiatici più importanti: Hong Kong meno 2,20, Tokyo meno 1,30. Ripeto, oltre all'effetto Federal Reserve c'è anche l'effetto Asia. Si teme soprattutto un credit crunch in Cina, cioè una restrizione del credito in Cina, dopo che i tassi negli ultimi giorni, erano state varie notizie che riguardavano anche alcune banche cinesi, ma negli ultimi giorni i tassi interbancari sono saliti tantissimo e hanno toccato oggi per pochi minuti addirittura il record del 25% come tasso interbancario, sarebbe, insomma, l'Euribor cinese. Per dirla tutta, questo perché? Perché, insomma, ci sono molti dubbi sulla liquidità del sistema cinese, ne parleremo tra poco, ma anche qualche revisione al ribasso delle stime sulla crescita del PIL cinese. Poi ci occuperemo dell'indice Gini, non ne parliamo spesso, è un indice fondamentale però. L'indice Gini è quello che serve, tra l'altro fu messo a punto da un italiano, Corrado Gini, uno statistico, è l'indice che misura come è distribuito il reddito in un paese, e quindi va da 0 a 1. I valori bassi vogliono vicini allo zero, dicono che c'è una distribuzione del reddito abbastanza omogenea, cioè tra quello più povero, mettiamolo in maniera un po' banale, e la fascia più ricca c'è un poca differenza, e comunque il reddito distribuito in maniera abbastanza omogenea e equa. Quando si avvicina a uno, praticamente se fosse uno, vorrebbe dire che tutto il reddito di quel paese è concentrato in un'unica persona, e quindi che c'è solo un ultra ricco, ultramiliardario, e tutti gli altri hanno reddito pari a zero. È chiaro che un estremo da zero a uno, e in mezzo si collocano i vari paesi. Perché lo dico? Perché oggi la notizia è sul Sole 24 Ore Online, e purtroppo l'Italia è tra i paesi che hanno registrato le maggiori disuguaglianze nella distribuzione dei redditi. È seconda solo al Regno Unito, nell'Unione Europea, e a livelli di disparità superiori alla media dei paesi dell'Ocse. So già e conosco già l'obiezione: l'Italia è il paese che ha l'economia sommersa, il nero più alto d'Europa, e questo potrebbe falsare l'indice Gini. È vero, però insomma, non si può sempre ragionare falsando ogni analisi perché in Italia c'è il nero. Sono 30 comunque i paesi considerati. Poi parleremo anche della spesa pubblica, e qui entriamo nella cronaca di oggi. Giustamente si è fatto notare che se costa 8 miliardi levare l'IVA, cioè non mettere l'IVA e l'IMU, 8 miliardi sono sostanzialmente, lo diceva oggi il leader della CISL Bonanni in un'intervista, se non ricordo male, vado a memoria, 8 miliardi sono esattamente un punto percentuale del PIL, della spesa pubblica, scusatemi. Allora, io per la spesa pubblica italiana è circa 800 miliardi. Ora, a me sembra abbastanza incredibile, lo dico con massimo rispetto per la spesa pubblica, poi vedremo la composizione, vedremo come si è mossa, vedremo che lo Stato spende molto di più, ma soprattutto per gli interessi sul debito. Però, insomma, che la spesa pubblica non possa ridursi di un punto percentuale, poi con questi 8 miliardi magari facciamo qualcos'altro. Uno può essere contrario alla sospensione dell'IVA e dell'IMU, ma insomma, che non si riesca a trovare un punto percentuale di risparmio nella spesa pubblica mi sembra un po' improbabile. Ne parleremo, tornerà il nostro ospite, con chi ha fatto tutta la spending review per il governo Cameron. Chiaramente Nemo profeta in patria, quindi ha vinto l'appalto per il governo Cameron, ma non in Italia. Ma sostanzialmente chi è specializzato nell'andare a vedere come spendere la pubblica amministrazione e guardare dove si può risparmiare, per capire se sia ragionevole o no immaginare che la pubblica amministrazione possa risparmiare in un anno come questo almeno un punto percentuale. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso le altre notizie in breve. Intanto una notizia appena battuta dalle agenzie: lo spread italiano è risalito a 300 punti, era dal 18 aprile che non toccava quota 300 punti, e anche di questo parleremo. Già oggi era arrivato a 296, il BTP a 10 anni spagnolo invece è a 327 punti. A proposito di Europa, oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto: prima tutti devono fare i propri compiti a casa, e se poi qualcuno ha ancora bisogno di sostegno e solidarietà, su questa base può anche ottenerli, ma non vale il contrario. Ha detto che era una dichiarazione molto, molto politica, visto che la Merkel ha parlato a Berlino a pochi giorni dal prossimo vertice dell'Unione Europea, che si terrà appunto il 27-28 giugno, ma durante la presentazione del programma elettorale della CDU-CSU, quindi era la presentazione del programma elettorale per le elezioni di settembre, e deve anche tranquillizzare la sua base. Angela Merkel, perché uno potrebbe dire che è giusto fare i compiti a casa, ma anche in contemporanea ricevere gli aiuti dopo. Il sostegno dopo non serve a nulla quando uno a quel punto non ne ha più bisogno perché non c'è più. Ancora. Il ministro delle finanze tedesco non ha confermato che, anzi il portavoce del ministro non ha confermato che il ministro Wolfgang Schäuble abbia mai detto di non capirsi con Mario Draghi perché italiano, sono interpretazioni. Comunque, insomma, dai, le tensioni che arrivano dalla Germania, più o meno male interpretate, ci sono tutte. Andando avanti, una buona notizia, se volete, arriva da un'analisi del Financial Times che ha scoperto come il compenso medio degli amministratori delegati delle maggiori banche americane ed europee sia sceso del 10% lo scorso anno e si tratta del primo calo in 3 anni. Certo, c'erano anche alcuni scandali tipo quello LIBOR che coinvolgevano le grandi banche britanniche. Noi andiamo avanti invece con il resto delle notizie di questa giornata economico-finanziaria. Dicevo del piano che presenterà il ministro Giovannini prima del Consiglio europeo, quindi tra mercoledì e giovedì al più tardi, sul lavoro. Oggi il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha confermato l'intenzione del governo di adottare un provvedimento a favore dell'occupazione giovanile incentivando le assunzioni a tempo indeterminato e ha ribadito l'impegno di giungere rapidamente alla definizione del tema esodati. Il governo avrebbe anche reperito le risorse per 1 miliardo di euro circa per consentire lo slittamento di almeno 3 mesi dell'IVA, dell'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, però bisognerà ridurre la spesa pubblica. Il rinvio di 3 mesi è stato definito positivo dal presidente Confindustria Squinzi, il quale però oggi a margine dell'assemblea di Federchimica ha aggiunto: le priorità per noi sono altre. Sul problema dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, chi ci governa sappia che il rapporto con gli imprenditori sarà compromesso irreparabilmente se per qualche ragione il nostro credito venisse usato per altri fini. Buona notizia sul nostro export fuori dall'Unione Europea, più 3,2% nel mese di maggio rispetto ad aprile. Su base annua invece l'aumento è più contenuto, più 0,7%. Comunque la bilancia commerciale italiana è in surplus, quindi esportiamo più di quello che importiamo per 3 miliardi di euro a maggio. Bene la Russia, più 14%, i paesi OPEC, produttori di petrolio, più 7,5%, negativa l'export negli Stati Uniti, meno 5,5%, Cina invece più 11%, Giappone più 20%, India meno 19%. E a proposito di Cina, partiamo con il primo tema che riguarda proprio i mercati, più che i mercati, le economie asiatiche. Ripeto, oggi tonfo della borsa di Shanghai meno 5,5%, di quella di Shenzhen meno 6,5%, che ha trascinato con sé, anche se con cali più lievi, meno 2,2% Hong Kong, meno 1,3% Tokyo, le altre borse asiatiche. Il timore qual è? Rallentamento dell'economia cinese da un lato e credit crunch, ossia restrizione del credito, dall'altro. Allora, per quello che riguarda la Cina, scusatemi ma sto controllando anche le agenzie che escono e l'andamento di borsa, devo dire che Mediaset è peggiorata non poco dopo la sentenza, meno 5,15% in questo momento, praticamente in chiusura. Il crollo della borsa di Shanghai. Che cosa è successo oggi? Beh, è la giornata di borsa peggiore da 4 anni a questa parte in Asia. La banca centrale cinese ha definito ragionevole la quantità di liquidità presente nel sistema finanziario, lasciando intendere che non allargherà i cordoni del credito. E la banca centrale cinese ha quindi esortato anche le altre banche a controllare i rischi di liquidità derivanti dall'espansione del credito. Affermazioni che hanno indotto l'agenzia di rating Moody's a lanciare un allarme su possibili conseguenze per le banche cinesi di media dimensione, che sono così crollate in borsa e hanno anche fatto schizzare il rischio, i costi del rischio sulle obbligazioni di queste banche. E poi Goldman Sachs ha tagliato le stime di crescita della Cina per quest'anno e per l'anno prossimo, a causa sia dei deboli indicatori economici, ma anche e soprattutto di questa stretta sul credito. Il PIL cinese quest'anno crescerà del 7,4% e non del 7,8%, dell'anno prossimo del 7,7% e non dell'8,5%. Ricordo ogni volta che in Cina, per il governo cinese, la differenza tra crescere più del 7% o meno del 7%, che per noi sarebbe un record da boom economico, significa la differenza tra mantenere questo ritmo di espansione economica dalle campagne verso la città oppure dover tornare indietro. Saro Capozzoli, buonasera. Buonasera. Buonanotte, che ore sono lì? Sì, sono le 11:30 qua, di sera. Buonasera, no, era più giusto buonasera. In collegamento con noi da Shanghai, nostro ospite in molte occasioni. Le analisi le leggiamo tutti i giorni, ci interessa poi raccontare anche che cosa vede chi opera da 13 anni in Cina come imprenditore. Lei infatti è fondatore e amministratore legato alla Yesa Investment in Cina da oltre 20 anni in realtà. Allora, prima domanda, ma quanto si sente questa stretta creditizia in Cina? Perché non vorrei che dietro il rischio stretta creditizia in realtà vi fosse un altro rischio, e cioè il sistema bancario cinese nelle banche medie potrebbe essere un po' opaco, e quindi il vero problema non è essere tanto che le banche prestano meno soldi, quanto che le banche hanno prestato soldi che non rivedranno più, e quindi il modo in cui li hanno prestati. Prego. Sì, diciamo che le banche cinesi sono state quasi, fra virgolette, invitate a prestare soldi da parte del governo verso aziende statali, aziende, diciamo, e anche istituzioni pubbliche per seguire le linee guida del partito, dello Stato. Ecco, si sono fatte le infrastrutture in questi ultimi 5 anni, si sono stati fatti grandi lavori, grandi opere, e le banche sono state invitate a allacciare i cordoni per poter investire, poter dare appunto soldi alle imprese più grosse, alle municipalità, eccetera, per fare opere che potranno vedere dei ritorni nel medio e lungo termine. E questo è quello che è successo. Beh, ora, ricorda un se però parliamo per le piccole e medie aziende, invece c'è sempre stato, specialmente negli ultimi anni, una stretta verso il credito verso le piccole e medie aziende. Queste sono due facce della stessa medaglia. Allora, noi ricordiamo, qualcuno forse si ricorda, quando le banche italiane, le grandi banche italiane erano controllate o di proprietà dello Stato. Sappiamo che poi lo Stato, quando è azionista, vedo che molti lo invocano, ha anche degli elementi negativi di distorsione, perché le banche di interesse nazionale ce le ricordiamo. E perché? Perché poi la politica può chiedere a una banca di erogare prestiti che magari la banca non darebbe con quel tasso agevolato, perché per sostenere la crescita, i piani di investimento, i piani industriali, no? Al di fuori di una logica di mercato bancario, del mercato del credito. Lei ci sta dicendo che in sostanza in questi anni le banche grandi e medio grandi facevano quello che gli diceva il Partito Comunista Cinese, per cui se decideva che bisognava tirare fuori i soldi, la linea di credito, per un investimento infrastrutturale o per sviluppare un'area industriale, loro lo facevano e basta, capito bene? Certo, è così. La garanzia è una garanzia statale. Infatti è praticamente inverosimile che una grande banca, ma anche una media banca cinese, possa fallire in questo momento in Cina, perché c'è sempre comunque lo Stato che interverrebbe in questo caso. Ma la politica adesso del nuovo governo invece è quella di non intervenire più, di non spingere più le banche a fare scelte sbagliate. E il cambio proprio completo è un po' come un'educazione del mercato, cioè lo Stato non interviene più massicciamente con interventi di questo tipo, ma invita il mercato a muoversi, crea le politiche, crea i presupposti, ma cerca appunto di incentivare in un'altra maniera, senza drogare il mercato con soldi che poi sono, diciamo, inesigibili. Dall'altra parte, ripeto, come quello che vedo sono la realtà delle industrie, no? La realtà dei cittadini e delle industrie. C'è stata una stretta intanto sui mutui, una famiglia non può più comprare più di una casa con mutuo, prima se ne compravano 30 e non c'erano problemi, ora non è più possibile. Gli anticipi sono saliti da 0 al 50% del valore della casa, quindi bisogna mettere il cash nella casa per poter avere il mutuo, quindi c'è stata una stretta. però ora comunque stanno tornando indietro i problemi creati da, già dal 2008, in cui lo Stato ha invitato le banche a dare i soldi alle amministrazioni pubbliche per fare le strade, per fare tutto gli aeroporti, tutto quello che è servito per dare un boost, cioè proprio per spingere l'economia. Sì. Dopo il meteo, però, Capozzoli, vorrei capire un'ultima cosa. Se tutto questo però è servito come grandi investimenti infrastrutturali e adesso il governo sta invitando le banche a stare più accorte sul credito, perché c'è tutto questo, tra virgolette, panico o incertezza sui mercati asiatici e sulla Cina? Perché, detta come la racconta lei, uno dovrebbe dire: vabbè, il governo ha chiesto alle banche di finanziare lo sviluppo cinese e quindi poi e garantisce in ultima istanza lo Stato, quindi nessuna banca può fallire. In realtà noi vediamo da settimane molto nervosismo, allora vorrei capire se c'è qualcos'altro. Magari sta frenando più del previsto l'economia cinese, magari è in sovrapproduzione, magari la frenata dell'Europa sta compromettendo l'export cinese più di quanto non immaginassero. La risposta dopo il meteo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. ...17:40, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Saro Capozzoli, che se tutto questo era per lo sviluppo cinese, se il governo e la banca centrale hanno invitato le banche a stare più attente e se comunque le banche cinesi sono garantite dallo Stato, mi spiega perché c'è tutta questa tensione, sia come crollo della borsa che come stime sul PIL, che come andamento negativo di tutti i mercati? Certamente una Cina che arranca, affanna, non fa bene al mondo, diciamo, perché è una Cina che si rivolgerà più sui mercati interno, cercando appunto di risolvere i propri problemi, e avrà molta meno attenzione nel risolvere i problemi o sostenere un'economia americana. Questo è uno dei motivi per cui gli americani possono avere un po' di apprensione. Cioè, quindi diciamo che quello che si sta ma il rallentamento cinese, mi scusi, è tutto dovuto all'export? L'esport cinese infatti è il gran malato, siamo noi, è l'Europa, e non tanto gli Stati Uniti che hanno un po' più o meno ripreso, ma è l'Europa che è il grande malato. È stato un crollo proprio sia degli investimenti europei verso la Cina, ma non perché non ci siano opportunità qua, ma proprio perché non ci sono risorse per venire qui a investire, piantarsi e prendere, diciamo, salire sul carro, che nonostante sta andando ha dei problemi, però comunque cresce. Ci sono milioni e milioni di contadini che ogni anno entrano nelle città, che hanno bisogno di casa, bisogno di tutto, c'è un'economia che comunque gira. E nel momento in cui gli investimenti sono ridotti, vuol dire che ci sono meno aziende che pagano tasse, e gran parte delle tasse che vengono pagate in Cina sono pagate da aziende straniere come valore. Sono circa 600.000 aziende straniere che pagano gran parte proprio del flusso del fisco cinese. È una situazione un po' paradossale, cioè un mercato che sta, diciamo, con grandi potenziali, ma con difficoltà che è dovuta proprio alla carenza di risorse da dedicare, allo sviluppo, e quindi loro adesso si stanno concentrando internamente. Stanno cercando di far pulizia di quello che sono le cattive abitudini, quindi non più soldi alle amministrazioni che poi non possono più ripagare, e questo distoglierà comunque l'attenzione dei cinesi verso certe situazioni dove i cinesi pochi anni fa andavano con sicurezza, con certezza: andiamo lì, andiamo a salvare, andiamo a ad aiutare gli americani, perché poi possiamo comunque avere un'ultima domanda però, Capozzoli, lei che cosa, operando da italiano a Shanghai, a Pechino, sì, e dando anche una mano alle imprese che devono delocalizzare, ma che cosa, lei lo vede un rallentamento nell'attività economica cinese poi tutti i giorni o no? O magari i consumi interni stanno soppiantando l'export? Il flussi interni stanno già, diciamo, sono già più importanti dell'export, perché appunto la domanda è molto scesa, molto diminuita. Stiamo parlando comunque di internazionalizzazione, non parliamo mai di delocalizzazione, sì. Qui noi almeno come azienda vogliamo far capire che qui è un posto dove si può replicare un certo modello di business per portare valore anche in Italia. Quello che succede è che c'è la costa, le città costiere che stanno rallentando, ma dall'altra parte abbiamo città che sono all'interno della Cina che stanno ancora viaggiando a 14-15% di PIL. Queste sono le due facce della Cina. C'è una Cina che sta correndo, faccio un esempio: Chongqing, che è una città che ha 34-35 milioni di abitanti, aumenta la popolazione di 500.000 abitanti all'anno. Questo è un grande volano. Città come queste, e quindi c'è una Cina a due velocità. Infatti molte aziende cinesi stanno uscendo dalla costa, stanno andando verso l'interno. La stessa Foxconn, per dire, ha lasciato Shenzhen e si è andata a piazzare quindi la costa che era a Chengdu, la mezzaluna costiera che era, diciamo, l'epicentro, sì, dello sviluppo cinese. Mi riferisco a Canton, Shanghai, i due nomi più conosciuti, sì. Lì rallenta, mentre le dice si nota che c'è ancora una dinamica e una domanda interna molto forte, comunque una produzione molto forte nella, sì, parte centrale della Cina. Grazie a Saro Capozzoli in collegamento con noi da Shanghai. Ho il traffico, poi i mercati, la borsa, oggi analisi abbastanza articolata per vari motivi, e poi invece veniamo all'indice Gini, quello che va a misurare l'uguaglianza o disuguaglianza nella distribuzione del reddito, e concluderemo come promesso con la spesa pubblica. Ripeto, non c'è nessuna polemica, a me sembra strano che non si possa ridurre la spesa pubblica italiana di un punto percentuale in un anno, questo permetterebbe di reperire le risorse per non aumentare l'IVA e non far pagare l'IMU, i famosi 8 miliardi. Traffico. ...17.47 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. La chiusura di borsa peggio del resto della giornata, meno 0,93% Milano. Ripeto, lo stacco delle cedole oggi pesa per uno 0,7%, quindi la chiusura reale al netto dello stacco per dividendi sarebbe di un meno 0,2%, è peggiorata nel finale. Peggio comunque ha fatto Parigi, meno 1,70, Francoforte meno 1,20, Londra meno 1,40%, l'America perde in questo momento 1,5%. Alcuni titoli staccavano le cedole, vi dico subito quali sono stati, così ci capiamo: Enel, Terna, Exor, ST Microelectronics, A2A e Parmalat. Non è un caso infatti che A2A perda il 7,80%, Enel il 6,40%, Terna il 4,80%, ST Microelectronics meno 3,50%. Invece nessuna stacco cedole, nessuna giustificazione per la Popolare di Milano, meno 7,5%, e Mediaset meno 5,30%. Chiedo spiegazioni a Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Sebastiano. Per quanto riguarda la Popolare di Milano, certamente l'esito dell'assemblea avvenuta nel weekend, con l'ok all'aumento di capitale, che per la verità era previsto, ma soprattutto con il successo di Giuseppe Coppini alla sua indicazione alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza, hanno un po' indicato, diciamo così, una nuova sconfitta per la Invest Industrial di Andrea Bonomi, che è un po', diciamo così, punto di riferimento per la trasformazione della banca. Abbiamo visto come è andato a finire il progetto di trasformazione in SPA, e questo certamente non è piaciuto al mercato, che ha penalizzato il titolo. Per quanto riguarda Mediaset, il mercato era abbastanza proiettato ad attendere la sentenza del processo Ruby, arrivata pochi minuti fa, tant'è vero che Mediaset perdeva già il 4%, e con la condanna in primo grado dell'ex premier Silvio Berlusconi è arrivata un allargamento delle perdite in borsa. Il titolo ha perso il 5,3% per questo motivo. Allora, questo per quello che riguarda Popolare di Milano e Mediaset. Altri titoli in questa giornata: bene invece Fiat più 3,80, bene anche alcune banche, devo dire la maggior parte, Unicredit più 2,20 come Ubibanca, Emilia Romagna più 1,5, Intesa San Paolo più 1,20, Generali più 0,20. Tra chi ha perso invece anche il Banco Popolare meno 0,70, Monte dei Paschi meno 0,71%. Allora, Fiat sicuramente, Telecom c'era attenzione ma invece poi alla fine ha chiuso in negativo, se ho ben visto, datemi il titolo, eccolo qua, meno 0,30%, e però invece Mediobanca dopo l'annuncio dell'uscita dei patti di sindacato. Sì, per quanto riguarda Fiat, le buone notizie arrivano da Chrysler e più che altro sono di natura finanziaria, perché Chrysler ha annunciato un'intesa con i creditori per modificare alcune importanti linee di credito a condizioni più vantaggiose. Questo si traduce in un risparmio importante dal punto di vista degli interessi annui per Chrysler, e il mercato lo ha apprezzato. Le banche sono andate incontro per la gran parte a un rimbalzo, vista la settimana molto negativa appena passata. Unicredit aveva perso il 7%, Ubibanca aveva perso il 5%, la Popolare dell'Emilia oltre il 9%. Per quanto riguarda Mediobanca, che oggi invece non ha saputo rimbalzare dopo il brutto tonfo seguito all'annuncio del nuovo piano strategico, il mercato continua a valutare le incertezze che sono emerse dal piano industriale. Qualcuno si annunciava qualche novità positiva in più, qualcuno mette il dito sulla piaga del costo del credito non ancora elevato per quest'anno, e per questo il titolo è stato penalizzato oggi. Per quanto riguarda Telecom, come tu sottolineavi, un'iniziale effervescenza del settore TLC grazie all'operazione annunciata da Vodafone su Cavel Deutschland, che non ha avuto però effetti nella seconda parte della seduta, il titolo ha perso lo 0,3%. Ancora andiamo sui titoli migliori e peggiori. Sogefi più 12%, Molecular Medicine più 12% anch'essa, e poi Fintel Energy Group più 9,90% e Screen Service più 8%. Ancora Credito Valtellinese più 5,28%, Moleskine più 4,44%. Fronte opposto invece Sera Therapeutics meno 8,90%, A2A meno 7,80%, Popolare Milano meno 7,50%, Biancamano meno 6,80%, Seat Pagine Gialle meno 6,60%, Mondadori meno 6,30%, Enel appunto dicevamo meno 6,40%. Andrea, io citavo lo stacco cedole di Enel, Terna, Exoresti, A2A, ma basta quello a giustificare il meno 7,80% di A2A e il meno 6,40% di Enel? In termini quantitativi sicuramente no, perché lo stacco cedola influisce in pesa per una quantità molto inferiore rispetto alla percentuale di perdita che c'è stato. Va detto che oggi la giornata degli energetici in tutta Europa e delle materie prime nello specifico, ma anche degli utilities, non è stata certo positiva. Certo lo stacco cedola ha fatto un po' da miccia a cui è seguita poi la giornata negativa degli energetici. Quando si parla naturalmente di crescita e quando si parla di crescita cinese come particolare fattore che va ad incidere sui mercati di tutta Europa, è chiaro che le materie prime e poi a ruota l'energia e le utilities sono quelle che poi finiscono per pagare i dazi in maniera maggiore. Ancora volete sapere altri titoli? Ve li do per quello che riguarda invece GTEC meno 4,71%, Exor la controllante di Fiat meno 4,24%, Prysmian meno 3,20%, Diasorin meno 3%, oggi anche il lusso ha subito meno 2,80%, Tenaris meno 2,70%, Azimut meno 2,20%, Autogrill meno 2%, Tods meno 2%. Finmeccanica meno 1,80%. Venendo invece al resto d'Europa, Andrea, per concludere, noi abbiamo visto uno spread italiano in risalita a 300 punti, anche quello spagnolo. L'Europa però è andata peggio dell'Italia, va detto oggi. Sì, certamente i settori... Cos'è l'Asia di cui parlavamo in apertura del programma? Sì, sicuramente l'effetto Shanghai e l'effetto Cina con il rischio di stretta del credito che ha influito sulla performance delle borse asiatiche sono stati il principale fattore. Va detto che la giornata dei bancari, che pesano sull'indice italiano molto di più che nel resto d'Europa, è stata tutto sommato positiva, cioè non sì, così chiaro negativa, scuro, diciamo così, sì. come quella dell'auto. Vero. Mentre chiaramente i settori che citavo prima, materie prime ad esempio, servizi finanziari ma anche tecnologici, hanno una presenza sugli altri listini ben più forte e hanno finito per influenzare di più le altre borse. La peggiore è stata Zurigo, che ha perso il 2,3%. Grazie Andrea Fontana, Radio Colli Sole 24 Ore. minuti, adesso andiamo verso il GR, poi torniamo per parlare dell'indice Gini e chiaramente anche della spesa pubblica. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare al tema del reperimento delle risorse, gli 8 miliardi ormai individuati da tutti come la cifra che servirebbe per evitare l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% e per confermare il non pagamento dell'IMU sulla prima casa, e qui ci si chiede appunto come risparmiare sulla spesa pubblica. Tra l'altro, ripeto, questa è una settimana cruciale perché giovedì e venerdì c'è un Consiglio europeo in cui si parlerà di crescita, in cui il tema dovrebbe essere quello di quali politiche per la crescita, Germania in campagna elettorale permettendo, ma è anche la settimana in cui il ministro Giovannini, quindi il governo Letta, dovrebbe presentare il pacchetto per il lavoro e soprattutto per l'occupazione giovanile. Dicevo, prima di arrivare a questo, forse è anche il caso di prendere in considerazione un indice che a noi italiani riguarda vicino perché lo creò un italiano, era lo statistico italiano Corrado Gini. È l'indice che misura la sperequazione sociale, o meglio, là dove c'è maggiore o minore disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, varia da 0 a 1, nel senso che se si è sul livello 1 è come se un'unica persona avesse tutta la ricchezza di quel paese, cioè tutto il reddito di quel paese concentrato su un'unica persona. Se è 0, vorrebbe dire che c'è la massima uguaglianza possibile. Allora, dei 30 paesi considerati, a seconda delle dinamiche tra gli anni 80 e i primi 10 anni del 2000, l'indice di disuguaglianza europeo va tra 0,26 e 0,30. Sta aumentando, se ho ben capito, la disuguaglianza nei paesi nordici, ma che partivano da livelli più bassi. Le disuguaglianze più forti si vedono nei paesi, diciamo, di matrice anglosassone, negli Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna. Nei paesi dell'est la situazione varia da paese a paese. Prima del crollo del muro di Berlino chiaramente i livelli erano simili a quelli dei livelli nordici, a dimostrazione che l'indice Gini misura solo l'uguaglianza o disuguaglianza, non misura la ricchezza reale. Cioè tu puoi avere un indice Gini molto basso perché sono tutti equamente poveri, o puoi avere un indice Gini molto alto perché hai alcuni molto molto ricchi ma gli altri più ricchi, ma gli altri non poveri, non so se mi sto facendo capire. In realtà il vero problema è come si muove questo indice, e l'Italia nel gruppo dei paesi mediterranei già aveva livelli di disuguaglianza abbastanza alti, in realtà molto bassi negli anni 60, dagli anni 70 in poi, finché c'è stata la scala mobile i livelli erano bassi, e poi pensate che nel 92 era ancora 0,27, poi è schizzato. Vorrei sapere come ci posizioniamo, perché è uscito un rapporto su questo, il Gini Growing Inequality Impact, che oggi è sul sito del Sole 24 Ore. Barbara Bisazza, buonasera. Buonasera. Allora, vorrei capire, eravamo a 0,26, 0,27 negli anni 90, a quanto siamo arrivati? L'Italia in questo calcolo fatto da un gruppo di università internazionali, tra cui anche l'Università di Milano, è allo 0,34, battuta nell'Unione Europea soltanto dal Regno Unito con lo 0,35 e comunque sopra la media OCSE che è di 0,31, una media calcolata su in realtà 30 paesi per un arco temporale molto ampio tra l'inizio degli anni 80 e la fine del 2010. Ecco, io spiegavo come tu puoi avere un indice Gini molto basso, c'è cioè una grande uguaglianza perché siamo tutti equamente poveri, no? E puoi avere anche un indice alto e magari però la parte più povera della popolazione è più ricca di altre. Misura solo il divario, non misura, diciamo, la ricchezza pro capite. Però è chiaro che anche come si muove il divario è un elemento importante per capire le politiche redistributive, soprattutto in un momento di crisi come questo, Barbara. Allora, nell'Italia è aumentata la divergenza tra, chiamiamoli così, ricchi e poveri, cioè ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri? Sì, non soltanto in Italia, comunque anche in Italia ci sono, diciamo, quattro tendenze di fondo. Intanto questo posizionamento rispetto agli altri paesi che ci colloca i valori che abbiamo appena ricordato. Poi si allontanano gli estremi, appunto, cioè i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. La ricchezza, ecco un dato interessante perché ci accomuna anche un po' al Giappone, la ricchezza si sposta sempre di più nei portafogli della popolazione più anziana, ovviamente sì, a scapito delle giovani generazioni. Anche perché quindi sono disoccupati, è difficile essere ricchi se non hai lavoro. Certo. Ecco, l'altra cosa è che la favola di Cenerentola si avvera sempre meno, nel senso che le coppie si tendono di più a formare tra cittadini che sono percettori di reddito più o meno dello stesso livello. Cioè in Italia o in generale, scusami? Questo in Italia soprattutto. Cioè le coppie che hanno, si mettono assieme le coppie che hanno livelli di reddito simile? Sì, quindi diciamo probabilmente tenori sociali, economici piuttosto simili. Cioè principe azzurro con principessa rosa, altro che altro. Ecco, che appunto, Cenerentola è un pochino meno frequente. Tra l'altro leggevo che anche in Gran Bretagna, uno spesso cita come un paese appunto in cui l'ascensore sociale sia facile, in realtà i due terzi dei cittadini britannici ritengono che per avere successo nella vita le conoscenze personali siano molto più importanti del curriculum, e questo è un atteggiamento forse più italiano che britannico. E tra l'altro la stragrande maggioranza dei cittadini ritiene che anche il proprio background, quindi il ceto di appartenenza, siano determinanti nella vita di una persona. La Gran Bretagna da questo punto di vista è più classista di quanto non sembri. Tutto questo, per allargare l'analisi sull'indice Gini, Barbara, porta a dire che in un momento di crisi aumenta il divario, ma aumentano anche le forme così non tradizionali di cooptazione e di mobilità sociale? Dunque, lo studio ha preso in considerazione i due fattori principali che generano la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, fattori che sono riconducibili fondamentalmente ai livelli di istruzione da una parte, sì, e alle dinamiche del mercato del lavoro dall'altra parte. L'effetto curioso è che se nel tempo i livelli di istruzione, di scolarizzazione sono sicuramente aumentati, però questo fattore non è riuscito a compensare la disuguaglianza, perché contemporaneamente il mercato del lavoro si è fatto più penalizzante per i nuovi entrati, per le nuove generazioni, quindi qui ci sono chiaramente tutti i temi del precariato eccetera, e siamo in stretta attualità visto che appunto proprio oggi Giovannini ha annunciato, no, che nel Consiglio dei Ministri di mercoledì si cercherà anche di dare di prevedere incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. E quindi, poi chiaramente lo studio va avanti, sono due volumi che verranno pubblicati a novembre, molto ampi, e cerca anche caso per caso, paese per paese, di valutare gli effetti possibili dal punto di vista sociale ed economico. Diciamo che in generale si nota che nei paesi in cui la disuguaglianza è maggiore c'è anche una minore propensione alla redistribuzione, in qualche modo una minore solidarietà sociale e anche una sorta di declino nella partecipazione politica, anche se non è chiaramente possibile a livello statistico stabilire un rapporto di causalità diretta. Però il sospetto viene. Sì, chiaro. Ed emerge in Gran Bretagna come anche in Italia, perché poi tutti questi indicatori sull'importanza, su chi del background di estrazione, quindi che tipo di famiglia hai avuto oltre che studi hai fatto, sono tutti elementi che rendono più vischiosa poi la mobilità sociale. Voglio dire, non c'è bisogno di un saggio per sapere che in un mondo più efficiente gli studi contano, contano i risultati che hai raggiunto, non la famiglia da cui vieni o i contatti che la tua famiglia ti permette di avere. E anche vedere questa chiusura, per cui torna a essere molto importante la famiglia di provenienza, il cosiddetto ascensore sociale che va sempre più lento, addirittura le coppie che tendono a formarsi tra chi ha un reddito molto simile, sono una fotografia, per quanto sgranata, per quanto variopinta, di un paese che si è ingessato, diciamocela tutta, no? Che, in cui le sperequazioni aumentano ed è sempre più possibile cambiare ruolo, cioè se eri povero diventare ricco, se eri ricco diventare povero, l'ascensore sociale è questo. Vuol dire. Grazie alla collega del Sole 24 Ore, Barbara Bisazza. Grazie a voi. Attenzione, lo dico ad alcuni ascoltatori che con un po' di sagacia dicono: ma che discorsi da sempre, il ricco non va in sport. No, no, attenzione, negli anni 60-50, dove gli anni d'oro per la mobilità sociale in questo paese, non pensate in maniera stereotipata, ma in realtà c'era un grossissimo incrocio anche di fasce diverse di provenienza e c'era soprattutto un ascensore sociale che funzionava, lo diciamo ormai da tempo, la laurea funziona sempre di meno, gli studi funzionano sempre di meno. Allora bisogna capire, quando tu ai giovani dici studiate, se poi il paese si muove con altre dinamiche, gli stai raccontando una balla per quello che riguarda poi il mercato interno? Magari no, se devono andare all'estero. Però attenzione, perché questo lo vediamo anche in tutti i dati che emergono dalle categorie professionali, cioè quanti figli di architetto sono architetti, quanti figli di giornalista fanno i giornalisti, quanti figli di medici fanno il medico. Tutto questo vuol dire congelare la mobilità sociale. Ultima parte di Focus Economia. Allora, la spesa pubblica italiana pro capite per ogni abitante è inferiore a quella di Danimarca, Finlandia, Olanda, Irlanda, Svezia, Francia, Austria, Belgio, Germania. Pro capite spendiamo meno, spendiamo più di Gran Bretagna, e siamo in linea, insomma, e di Spagna, Grecia e Portogallo. Il problema è come spendiamo. 801 miliardi l'anno scorso di spesa pubblica, 51% del PIL, 3-4 miliardi in più rispetto al 2011. Abbiamo speso in più per le pensioni, sostanzialmente 6 miliardi in più, 249 miliardi. Abbiamo speso in più soprattutto per gli interessi che paghiamo sul debito, ecco perché lo spread è importante, 8 miliardi in più. Abbiamo speso meno per il personale, 4 miliardi in meno rispetto al 2011, per i consumi intermedi 3 miliardi in meno, investimenti meno 2 miliardi. La domanda che pongo a chi è specializzato nella spending review, cioè nell'andare a vedere come spende la pubblica amministrazione e capire dove spende male, dove spende troppo, magari anche dove spende troppo poco, è se un punto percentuale sulla spesa pubblica sia una soglia irraggiungibile. Dottor Ezio Melzi, direttore generale di Bravo Solutions, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Voi avete gestito per il governo britannico gli acquisti delle Olimpiadi di Londra, siete stati chiamati anche dal primo ministro Cameron per la revisione dei conti pubblici, lavorate anche come consulenza per gli Emirati Arabi e per il Messico, chiaramente non per l'Italia perché ne è un profeta in patria. Mi dica una cosa da tecnico. Se noi abbiamo bisogno di trovare 8 miliardi per non aumentare l'IVA e per non far pagare l'IMU sulla prima casa, e io le dicessi: ho bisogno che lei tagli di un punto percentuale, perché sono 800 miliardi di spesa pubblica, la spesa pubblica, lei cosa mi risponderebbe? Beh, dunque, intanto io le risponderei che nessuno ha ovviamente la bacchetta magica, questo è chiaro. Il vero problema è che noi siamo arrivati, come al solito, in prossimità di una scadenza importante e non sappiamo cosa fare. Allora, quello che ci insegnano gli altri paesi è che bisogna lavorare pianificando le iniziative, no? Cioè bisogna lavorare sull'analisi della spesa prima che sia impellente il suo taglio, prima che il suo taglio diventi vitale, altrimenti ci troviamo nella condizione di un anno e mezzo fa, quando una persona è stata incaricata di analizzare Enrico Bondi. Esattamente, e non ha potuto far altro, chiunque avrebbe fatto così, che fare tagli lineari, andare a pescare dove gli sembrava. Sì, però Melzi, 500 milioni di euro fu quello che riuscì a risparmiare Bondi in questa spending review. È chiaro, il problema vero è che noi in questo nostro paese, purtroppo, non abbiamo ancora una visibilità chiara di come è fatta la spesa. Lei si immagini, avrà senz'altro sentito il dibattito di queste settimane, in cui non si riesce a capire esattamente quanto è il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende. Pazzesco. Allora, e qui stiamo parlando di ordini di grandezza che si riferiscono di decine a miliardi di euro. Qui invece, per fare un'analisi della spesa seria, bisogna andare a vedere le centinaia di euro, non solo i miliardi di euro. Però poniamo che io sia Enrico Letta e le dica, mi scusi, lei che è direttore generale di Bravo Solution, io ho bisogno di trovare 8 miliardi perché sennò mi salta il deficit e riparte la procedura di infrazione, però non voglio aumentare l'IVA, non voglio far pagare l'IMU. Su 800 miliardi di spesa, tagliare l'1%, secondo lei si può o no? Con questa urgenza, mi rendo conto, capisco quello che dice lei, che bisogna pianificare. Il rischio vero è di commettere per l'ennesima volta un errore di taglio indifferenziato, che poi, badate bene, quando si va nei confronti con le parti sociali, è difficile far passare provvedimenti che non sono sostenuti da analisi precise e approfondite dell'argomento. Guardi, noi stiamo vedendo questa esperienza che stiamo conducendo sia in Olanda che nel Regno Unito su temi specifici dell'analisi della spesa. Bene, una delle ragioni per le quali questi governi hanno avviato dei processi di analisi approfondita della spesa è proprio quella di potersi sedere davanti alle parti sociali e negoziare con le parti sociali, con il supporto di analytics, con il supporto di elementi concreti, i provvedimenti specifici per ogni voce di spesa. Ma questo è un approccio razionale. Per cui la sua risposta a me, Enrico Letta, sarebbe no, cioè adesso io non riesco a darti. Nessuno in questo momento è in grado di trovare nel giro di poche settimane 8 miliardi di euro di spesa. Ripeto, a meno che di non commettere gli errori che sono stati commessi. Cioè, mi scusi se insisto, ma se io dicessi allora tutti i ministeri devono spendere l'1% in meno, tutte le amministrazioni locali devono spendere l'1% in meno, no. Guardi, la prima osservazione che mi viene è sul significato di risparmio. Il risparmio è un risparmio quando è un risparmio vero, cioè io posso pensare di avere risparmiato quando nel mio conto economico, nel mio bilancio familiare, aziendale o statale ho davvero riscontrato il beneficio economico, no? Se invece noi non ci mettiamo nell'ottica di un'analisi approfondita delle spese, ma soprattutto un'analisi sistemica, un'analisi che si riproduce periodicamente. Guardi, con il governo inglese noi siamo alla seconda wave di analisi della spesa, vuol dire che abbiamo fatto un primo processo sul quale sono stati presi dei provvedimenti dalla parte della politica, successivamente c'è un nuovo processo, c'è un nuovo, quelli che gli anglosassoni chiamano refresh, cioè aggiornamento dei dati per capire dove è necessario e se è necessario qualche altro provvedimento di razionalizzazione, ma addirittura in qualche caso si è deciso proprio di spendere di più, no? Perché? Perché ci si è accorti che si spendeva molto di più in qualche altro settore, in qualche altra voce di spesa. Ho capito, comunque la sua risposta è no, lei non mi sembra. Credo che nessuno in questo momento, un professionista serio, sia in grado di poter dire. Ma quella ha ragione lei sicuramente, qualche taglio, qualche spreco, qualche vitalizio, però insomma. Tenga presente, dottor Barisoni, che di quegli 800 miliardi una quota importante sono costi del personale e pensioni. Sì, no, l'abbiamo letto prima, metà quasi, diciamo, sono intoccabili. Vabbè, chiederei al resto un taglio del 2%, ma mi rendo conto che il mio ragionamento evidentemente è un po' grossier, però si inizia a fare questo calcolo della spesa, sennò non ne usciamo più. Grazie intanto a Ezio Menzi, direttore generale di Bravo Solutions. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.